Se chiedo a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, posso uscire alle 3? Lei vuol sapere dove vado, quando torno e chi viene insieme a me. Esco da solo perché mi va, ma lei ti dice no signore, vai a chiederlo a papà. Se chiedo al papà, papà, papà, papà, papà, posso prendere un caffè, lui ti risponde senza tanti complimenti, ti fa male, guai a te. Ma se io insisto, lui dirà lasciami in pace per favore, vai a chiederlo a mamma. Chiedilo a mamma, perché quando tu sei nato c'era lei. Mi fa incogliare.